pensato a lungo, sai, ma ogni istante è perso ormai. Tu hai ignorato ogni momento, soffocandomi così. Non è mai stato semplice ricominciare a vivere. Hai cancellato ogni ricordo, ridotto tutto in cenere. Ed io non riesco ancora a credere. Se vuoi andare, vai, prendi tutto ciò che vuoi. E se ritornerai, questo è tutto ciò che avrai. Se vuoi andare, vai, se vuoi andare, se vuoi andare, ti prego non portarti mai. E se ritornerai, se vuoi andare, se vuoi andare, se vuoi andare, tutto ciò che troverai. Non ti lottare mai. Allora dimmi come stai. Non è cambiato nulla, dai. Non ho mai detto di volerlo. Stai scappando, è la realtà. Per quei discorsi futili, per quelle notti invece inutili, hai mascherato ogni silenzio, trasformandoci così. Ed io non riesco ancora a credere. Thank you.